ad alta voce. Maria Paiato legge Il comunista di Guido Morselli. Quindicesima puntata. L'americano posò sul ginocchio di Ferranini una mano immensa. Shakespeare non ha scritto un dramma sull'insonnia. Peccato, ha mancato il suo soggetto più degno. Bene, amico mio, io passo 3-4 notti la settimana a 3 miglia di altezza sopra l'Atlantico e questo mi conforta. Qualche volta verso l'alba riesco a chiudere gli occhi. E ora le racconto in che maniera mi sono ammalato. Colpa mia, amico, colpa mia. Mi piaceva andare nel sud, a New Orleans, la città degli avi. Ci compravo roba, anticaglia, avevo il gusto delle croste e dei ferri vecchi. Facevo il viaggio in auto, a comode tappe, e usavo fermarmi la sera in una piccola città a pernottare. Un albergo elegante con un dancing dove un tempo suonava Duke Ellington. Mi ci fermavo senza bisogno, solo per sfida, perché l'albergo era vietato alla mia razza. Mi davo per bianco, sapendo quello che rischiavo. La piccola città è Auburn, Alabama, un paese dove non si scherza con chi viola la segregazione. E là d'estate gli umori diventano cattivi, influisce il caldo umido. Beh, quella notte scoppiò un pandemonio giù da basso e seguì il clean up, la razzia nelle camere. Entrarono, io dormivo e mi riconobbero dall'odore. Hanno il fiuto infallibile. Mi legarono e mi svegliai appeso fuori dal davanzale al 7° piano. Erano 3 donne e 2 erano anziane con gli occhiali, forse maestre di scuola. Mi tennero un paio d'ore a ciondolare là fuori. Ma tutto è finito bene, tranne per questa dannata insonnia. Ora la lascio, amico. Vado a sgranchirmi le gambe. Sono diventato un filosofo. Comprendo gli uomini e la sorte degli uomini. Sa qual è la mia dottrina? Ci sono infinite cause, tutto è necessario e niente ha uno scopo. Dico, non c'è un singolo scopo. Nemmeno uno, in niente, né fuori né dentro di noi. Una tale visuale mi permette di solidarizzare con gli uomini e di capirli, anche quando loro dormono mentre io me ne sto sveglio. Le auguro con cuore leale un buon riposo. Si rizzò sulle lunghe gambe e andò a perdersi nelle profondità dell'aereo, già oscurato per la notte. Non gli venne fatto di dormire nemmeno a Ferranini. Com'è che non mi preoccupo? Non penso, non decido, seguitava a dirsi. La reazione riflessa alla sua irriflessione. Quel non sentire un rimpianto, non avere un proposito. Quell'affidarsi al caso quando 20 anni prima, ed era un ragazzo, aveva passato il mare con il cuore che gli si spaccava in due fra la nostalgia di quanto lasciava e la fierezza di quanto andava a fare. Avendola tutta chiara davanti, la sua missione nell'impero capitalista, che sarebbe cominciata a Boston, sulle tombe dei martiri. Adesso niente altro che rinuncia e ironia. In fondo, se nessuno lo prendeva sul serio e aveva dovuto invidiare Mazzola, non c'era motivo che si prendesse sul serio lui. Ma un piano, ma un programma immediato, sapere che cosa avrebbe fatto allo scadere del visto di lì a 8, a 7 giorni. Tornare a casa? A Roma? Ma che? Gli veniva il ribrezzo a pensarci. Come uno che ripensa un febbrone appena smorzato. E allora bisognava, a supporre che non lo avessero espulso subito, decidere cosa fare, dove nascondersi, trovare una vita, un lavoro e ricominciare. A 46 anni, deluso e incredulo, incapace. Incapace persino a angustiarsi per Nancy che lo aveva chiamato ed era in pericolo. La notte dietro a sé, la notte davanti. Così l'aereo che incurvava la sua parabola fra i due continenti. Ma l'aereo aveva una rotta, puntava diritto e nella cabina dei piloti stavano accese tutte quelle luci azzurre. La notte lì non esisteva. Lui, intanto, era al buio. Derelitto e senza scopo, Ferranini il puro, l'intransigente, roba da ridere. Pochi giorni o ore sono bastati a fargli perdere se stesso, comunque a fargli perdere l'ubbidienza, la speranza, la fede. Attenzione, giornalisti d'America, è in procinto di sbarcare un Kravchenko. Proviene da Budapest? No, da Roma, dove non lo hanno ascoltato, non gli hanno reso i debiti onori. Bene, bravo lui, domani chiederà diritto d'asilo nella libera America. E d'altra parte tornare? No. Buffone, voltagabbana, tutto quello che volete, ma stanco. Stanco, senza rimedio, impossibilitato a continuare. E cosa c'è di strano? Ci sono dei preti che si spretano. Enrico Caruso in 3 mesi rimane senza voce. Uno è innamorato matto e poi gli passa. Lui, per esempio, all'arrivo di quel telegramma aveva pensato che Nancy fosse morta. Il mattino dopo, mentre si preparava a partire, era tranquillo, sicuro di fare a tempo. E come mai? Semplice. Non era più innamorato. L'amore è pessimista. Amore e gelosia, amore e timore. Chi è che diceva così? Ah, sì, si capisce. La Nuccia, bella scoperta. Scesero regolarmente all'aeroporto di New York, ma a mezzogiorno e non alle 9. Persa la coincidenza per Boston, dovette aspettare il prossimo volo, ossia le 3. A telegrafare era stata la cognata di DeMar, Rosalind, o Rosie, Gavin, dalla quale Nancy alloggiava durante le sue assenze da casa. La vedova Gavin aveva sempre vissuto a Boston e Ferranini sapeva di trovare Nancy presso di lei. «Perché mia nipote ha voluto che fossi io a avvertirla?» Perché ha voluto che lei, prima di vederla, passasse qui da me per prepararla. Ecco perché vuole che lei sia informato. Ma adesso mi accompagni, la prego, andiamo. Adesso era preso dalla fretta, reclamava l'epilogo. Sapeva bene che tutto, per lui, dipendeva da quel primo incontro. Quei primi momenti, quel modo di guardarlo avrebbe deciso tutto. Che cosa aveva da chiacchierare questa donna? La Gavin spalancava gli occhi. «Andiamo? Amico, ho 63 anni, vuole che venga via subito senza un preparativo. Sono 400 miglia, è una notte di treno». «Ma dov'è?» urlò. «Dov'è?» «A Filadelfia, amico, naturalmente». L'eccitamento che lo aveva tenuto su in quelle ore dopo lo sbarco cadde di colpo adesso che si avviava a ripartire. A Filadelfia non ci arrivò che dopo mezzogiorno, con l'unico treno che si fosse mosso verso il sud. Nancy era al John Morgan Hospital a Huntington, un posto che a Ferranini gli sembrava di ricordare. All'altro capo della città, di là dal Fairmount Park, dove si faceva condurre il vecchio DeMar per giocare a golf. I ricordi riemergevano, cominciavano a collegarsi. Là, in quel punto della stazione si scendeva nella subway, ma il cancello era chiuso, lo sciopero. Sulla piazza nevicava, le persone addossate ai muri per difendersi dalle raffiche non si muovevano, non rispondevano. Nessun tassì in vista fra le auto ferme che la neve ricopriva. «Una giornata nera con tutto il bianco che c'è», si limitò a dire un uomo della polizia a cui aveva domandato dei tassì. Evidentemente la domanda suonava assurda. Ritornò sotto l'atrio, provò a rivolgersi ai conducenti di due macchine militari che stavano avviandosi. Il primo gli rispose con una risata. Quello che veniva dopo, un negro, fece atto di sterzargli addosso, sghignazzando anche lui. E di nuovo, adesso che era restituito alla città della sua nostalgia, l'ansia di fare presto, col dispetto di avere sprecato le ore, già 24 delle così poche che gli spettavano, si incamminò a piedi. La valigia issata sulla spalla. Se imbroccava la strada potevano essere 2 ore di cammino, 4 o 5 miglia e non di più. Alle 4 sarebbe stato all'ospedale. Dopo una lunga marcia rettilinea, sbucò e si permise una fermata, era intirizzito, mezzo accecato, in quella che gli sembrò Marketplace. Aveva percorso, calcolò, un quarto della distanza. La neve soffiava secca e obliqua, pungente. Ci si vedeva appena. E tuttavia si era orientato bene. Sono bravo dopo tanti anni. Aveva abbastanza chiaro in mente il suo itinerario e seguendo il moto degli altri pedoni che costeggiavano come lui il fiume, pensava di raggiungere il palazzo municipale. Lì un mezzo di fortuna lo avrebbe trovato. Una sera sotto il palazzo aveva incontrato Nancy che comperava fiori. C'era un portorichegno nel chiosco a vendere i fiori. Lui, staccandone uno dal mazzo, glielo aveva infilato fra i capelli. Una sera di giugno. Ma il palazzo non appariva. Entrò in un grande negozio dove incongruamente qualcuno si faceva mostrare frigoriferi. Gli dissero che era lontano dalla Town Hall e ad ogni modo per andare a Haddington doveva tornare oltre il fiume, ossia tagliare il centro della città verso ovest. Una commessa, le aveva spiegato che era diretto a un ospedale, si interessò a lui. Andò a informarsi, gli disse che un furgone stava partendo per consegnare roba a domicilio, sarebbe passato dalla parte di Fairmont. Era gentile quella commessa. Voleva scusarsi della sua mezza tinta, una pallida pelle di banana. Ferranini si adattò a aspettare, ma non partirono che mezz'ora dopo e la macchina aveva un lungo giro da fare. Cadeva il crepuscolo quando infine lo fecero scendere. Non si addentrò nel Fairmont Park perché aveva paura di smarrirsi. Il blizzard non rallentava. Prese l'avenue che lo contorna. C'era una piccola folla, ragazzini usciti da scuola che strillavano eccitati dalla rara necessità di camminare. Ferranini cercò di stare dietro a loro. Cominciò a risalire il grande arco di cerchio alberato. Da un lato gli alberi facevano massa con quelli del parco. La luce filtrata dei fanali non levava al luogo il suo aspetto ingenuo e feroce di foresta. La città pareva scomparsa. Poi i ragazzi presero per una traversa abbandonando il viale. Come fu solo, si sentì sperduto. E il male al braccio gli si impose, forte più del freddo e della stanchezza. Non era il destro, quindi non il peso della valigia da portare. Era il dolore, ben diverso, all'avambraccio sinistro, esteso al collo e alla nuca. Lo strano vuoto oppressivo dal diaframma alla gola, il preannuncio. Ma il respiro gli veniva ancora normale. Bisognava non pensarci. Distrarsi e intanto prendere un po' di riposo. A intervalli, lungo il viale, emergevano sagome di automobili, vuote, bloccate. Si appoggiò a una di esse, spazzando con la mano la neve sino a sentire il metallo. La macchina gli pareva un surrogato di presenza umana. Tentava di stabilire a che distanza fosse l'ospedale. Poteva avere fatto 1,5 miglia dal punto in cui era sceso dal furgone, sempre tenendosi al margine del parco. Dunque gli restava altrettanta strada, o poco più, un'ora scarsa di cammino. Riprendendo a camminare, Ferranini si portò sull'altro lato del viale, a destra, e si accorse che costeggiava una radura e la neve lì era tutta pari e più bassa. Gli venne in mente che da quella parte doveva esserci un laghetto e vicino una vecchia casa storica della guerra d'indipendenza. Lì ricominciava l'abitato. Si arrestò di nuovo, posò la valigia. A visitare la casa c'era andato con Nancy. Lei diceva che era un santuario, un po' enfaticamente. Si sforzò di forare la foschia. Del santuario nessuna traccia. Inutile che cercasse riferimenti. Alle sue spalle intese passare a piccola velocità delle auto, una dopo l'altra, in colonna. Si buttò verso il viale, ma quelli non videro i segni che faceva. «Eccomi, marooned, abbandonato», provò a scherzare. Sperduto e solo. L'America, all'epoca della frontiera. Ma se morire è una semplificazione, pensò, perché uno deve camminare tanto prima? Sbattersi, fare fatica, penare. Riprese a trascinare la valigia, a passo, e adesso si teneva sul viale. Una macchina poteva avere voglia di fermarsi a prenderlo. Aveva ritrovato l'America. Non la riconosceva. Dopo 13 anni di aspettazione, consapevole o no, però ci era arrivato. La sua ultima parabola non poteva finire sulla salita del Tritone a Roma. Bisognava che finisse lì e lui, puntuale, era sul posto. Il rimanente contava meno. Nancy ormai l'aveva vicina e proprio ora capiva bene che vederla, parlarle, non era indispensabile. Intanto dormire. Lui di questo aveva bisogno, dormire. Cercava l'ospedale, ma forse perché là c'era un letto. Adesso che il blizzard dava giù, la neve pareva una cosa più familiare. Cadeva diritta, non si avventava nel viso. Non era poi così alta, un po' più di mezza gamba. Si sedette sulla valigia, alzò una gamba, poi l'altra. Ogni tanto, per qualche attimo, la luce dei fanali mancava. Il buio era completo. Si guardò con attenzione la scarpa del piede sinistro. Una cucitura sulla costina di dietro aveva ceduto. Non se n'era mai accorto. Il calcagno veniva fuori senza sforzo e il cuoio era macerato dal lasciare sulla neve la traccia rossiccia della tinta. Sorrise al suo piede. Se lo palpò, fradicio e gonfio alla caviglia che chiedeva di non camminare più. Sotto di lui, nella valigia, sapeva quello che aveva. Le 3 camicie, qualche fazzoletto, gli ultimi 2 volumi di storia della biologia, il numero dell'unità di ieri, una maglia, una scatola di dolci comperata a Ciampino per Nancy. Faceva ritorno in America non molto più ricco di 20 anni prima, quando era sbarcato emigrante. Ancora un convoglio di auto sul viale. Dal finestrino di una di quelle macchine si spandeva sulla neve un fiotto di musichetta. Riprese a andare ed era già notte. Il gran viale proseguiva sempre in lievissima curva, fra le piante solenni, piante secolari. Non come da noi, che una pianta forestale non riesce a toccare 20 anni, 30 anni perché fa troppo gola alla gente. Faggi, aceri, olmi, bianchi, immensi. L'America è tutto un parco, una delle sue bellezze. Là, sul confine di Fairmont, doveva esserci un fiume da qualche parte, questo lo ricordava, ma chi riusciva a vederlo? Gelato, coperto dalla neve. I parchi sono il trionfo dell'America, sono il suo simbolo, America's Wonders. E se uno ci muore dentro, beh, peggio per lui. Non si va a passeggiare nei parchi quando c'è il blizzard. Qui le stazioni danno un preavviso di 12 ore, qui c'è l'efficiency. Lo riconosce anche il grande Stalin. Nel libro Principi del Leninismo dice: lo spirito rivoluzionario russo deve unirsi all'organizzazione americana. Come no? Un comunista non può ammirare l'America. Stupido Ferranini, che tra le due cose ci vedeva un contrasto. Anche Reparatore ammirava l'America. In senso tecnico, i sindacati americani sono i migliori del mondo. Ma, dice il giornale, i lavoratori dei trasporti sono bitterly underpaid. Peggio per loro. Reparatore è uno che se ne intende e ha le sue buone ragioni. Che sonno, porca mattina. Se chiudo gli occhi un momento, casco. E la tentazione di dormire lo prendeva scioccamente. Seguire con i piedi il solco rimasto delle ruote, camminare e dormire, chiudere gli occhi. Ma aveva lo stiramento al collo, alla spalla, per aiutarlo a stare sveglio. Il dolore si faceva sentire, non troppo forte ma regolare, pulsava col sangue. Buttò la valigia sulla neve, si inginocchiò, prese fuori la maglia, se la infilò sotto l'impermeabile fra il collo e la spalla. Non aveva una sciarpa. Sperava di trovare in qualche angolo il flaconcino della coramina e invece gli venne a mano il suo breviario, il manifesto del 48. Tornò a chiudere. Su che cosa si basa la famiglia? Sul capitale privato. Il manifesto dice appunto così. Lo sapeva frase per frase, a memoria. E non era giusto? Lui veniva in cerca di Nancy perché Nancy rappresentava il capitale privato, anzi, meglio, la patria del capitalismo. Il presidente Leone gli aveva detto auguri per sua moglie. L'amore della famiglia è un buon segno per Leone. Chi ama la famiglia ama l'ordine. Onorevole presidente, io sono per l'ordine. Ma intanto lui non possedeva una sciarpa e la coramina era rimasta a casa. Il dolore batteva più fitto, con quella diramazione di spasimi sin sotto l'orecchio e poi di dietro alla nuca. Si tirò su e le luci erano andate. Si voltò, guardò intorno, non una luce, nemmeno distante. Neve e silenzio. Si trascinò avanti, nel buio. La mia Filadelfia, pensò. Però gli parve di avere fortuna. Quando le luci si riaccesero, camminava da un pezzo alla cieca, barcollante sulla traccia delle auto, si rese conto che a una certa distanza da lui il gran viale si biforcava. Al bivio vide che verso destra gli alberi terminavano e ai lati della strada riuscì a distinguere le ringhiere di un ponte. Poteva essere il fiume. Più in là doveva trovare l'abitato. Raggiunse il ponte. Deserto anch'esso, interminabile, tagliato dal vento con un sentore di acque gelide. E infine la strada si allargava e scendeva e le case in basso ricominciavano. In basso, dietro uno sbarramento di auto abbandonate, una piazza si apriva fra case che parevano abbandonate altrettanto, oscure e senza vita. Ma c'era quello che non aveva nemmeno sperato. Il telefono. La cabina era illuminata, asciutta. Cercò il numero nella guida con le dita intorpidite, che non sapevano separare le pagine. Poi si angustiò a mettere insieme le parole inglesi da dire. Nella sua povera testa non era restato più niente. La telefonista della clinica non lo capiva, provò a parlare italiano, la telefonista si rifiutava di rispondere. C'era un uomo in attesa di telefonare. Gli fece cenno di venir dentro, gli segnò col dito sulla guida il nome della clinica. L'uomo disse, è qui vicino, meno di mezzo miglio. Ferranini, attraverso la pagina della guida, tracciò con il lapis il nome, Mrs. DeMar. L'altro comprese, richiamò, ripeté il nome, si voltò a riferire la risposta. Nessuna Mrs. DeMar alla clinica. Lui uscì, si appoggiò al vetro della cabina e subito, con sollievo, si lasciò scivolare. La piazza era scomparsa. Di nuovo ogni cosa sprofondata nel buio. L'uomo urlava nel ricevitore, aveva acceso un fiammifero. Ferranini, lì, seduto, la testa sul petto, sentiva tutto. L'uomo al telefono parlava spagnolo, ma era tranquillo. Per lui la fatica era finita. Non c'era più motivo di andare. Adesso guardo ancora nella valigia se trovo la coramina, pensò. e non fece un movimento. L'uomo venne fuori, si chinò su Ferranini, riaperse, lo spinse dentro con le mani, piegandogli a forza le gambe per poter richiudere la porta. Ferranini non reagì, rimase solo, per terra, in quel piccolo spazio. Dopo qualche tempo l'uomo tornò. Si introdusse a stento, scavalcandolo, sganciò il ricevitore, ancora urlò, imprecò in inglese stavolta, e lui ascoltava, capiva ogni cosa. Aveva chiamato la polizia. Quelli non gli davano retta. Acceso un altro fiammifero, tentava con un altro numero e sbraitava nel telefono, si agitava, schiacciando un ginocchio a Ferranini. Sciopero e neve. L'uomo si sfogava con lo sconosciuto che gli stava ai piedi, o piuttosto parlava da solo. Doveva crederlo privo di sensi, svenuto. Stai crepando e ti lasciano crepare, come un perro. Parlava bastardo, non gli interessava farsi capire. Invece Ferranini capiva parola su parola e si diceva «è portorichegno». Giù a downtown, davanti al Garden of Allah o al Roxy, lì la trovi la polizia. Vanno a cercare il tassì ai clienti che partono, ma non invidiare la gente che ha quattrini, bada bene. In America gli uomini sono tutti uguali e tutti soli. Ferranini sentiva l'orlo di quel cappotto strisciargli sul viso, nel buio. Eppure non gli dava noia. Lui era contento di averlo vicino. Amico, cercò di dirgli. E l'altro gli tastò il viso con la mano, forse meravigliato che desse segno di vita. Gli tornava il dolore al collo, alla spalla, alla nuca. Adesso respirava male. Tentò di muovere la valigia che gli pesava di traverso sul petto. L'uomo scostò la valigia, se la infilò fra le gambe. Basta lo sciopero, il blizzard e anche meno. Allora uno è ridotto a se stesso. Nero o bianco che sia, povero, ricco, è un frantume. Non hai più rapporto con gli altri, ognuno pensa per sé e la società va in pezzi, ossia si vede che non esiste. Basta un guaio grosso, un incendio. Se c'è un incendio qui, la metà muoiono. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.